It is later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non più. La fabbrica di polli produce, non cuoce quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli la vita torna alla normalità, Drago sta cercando K insieme al pollo in sbattimento. We tell you this frankly. If you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. Pollo, pollo in sbattimento, hai visto K? No. No, io sono stato nel tabernacolo fino adesso, Ormai ti sei stabilito fisso nel tabernacolo? Sì. E conti di rimanere lì per sempre? Beh, a Dio piacendo, sì. A Dio piacendo? Beh, ovvio, se piace a Dio. Vabbè, se piace a Dio, vabbè. Senti, ma K dove cavolo si è ficcato? Eravamo d'accordo di vederci qui. Non so. E mi sta facendo aspettare, e lui lo sa che io odio aspettare la gente. Beh, guarda, io odio la gente, così faccio prima. Anzi, odiavo la gente. Adesso sono diventato devoto al Signore, e quindi voglio bene a tutti. Ma ne sei proprio sicuro? Certo. No, perché secondo me tu credi di star bene e credi di aver trovato una soluzione diventando religioso. Tutta una questione di immaginazione, perché tu, nel tuo intimo, sei sempre il solito bastardo cinico di sempre. Non è vero. No, io sono tuo fratello e tu sei mio fratello. Sì, vabbè, a parte che non è vero che siamo fratelli. E poi, se io fossi tuo fratello, per forza che tu saresti mio fratello, Scusa. Ma sai che sei proprio un ciula? Ma come un ciula? Anzi, sono un po' indeciso. Sei un ciula o un baba? E dai, Polo, smettila. Aiutami a cercare K piuttosto, che non capisco dove si è cacciato. Ah, è lui. Ma pronto, K, dove sei? Pronto, ma ciao Drago. Drago. Hola Chico. Ma come hola Chico? Dove sei? Dai, che ti sono aspettavo Barcellona, qui. Drago, Barcellona, Barça, in Catalogna. Sì, dai, non dire cazzate. Dove sei? Ti aspettavo, era qui che... Drago, sono a Barcellona sulla Rambla. Sì, vabbè, io sono invece... Sai dove sono io? A San Pietroburgo, davanti all'Ermitage. Fra un po' vado a vedere... Le mostre. Peggio per te, perché farà freddo, qui c'è il sole, se fa caldo, poi Drago, se non vuoi crederci, non crederci. D'altra parte, quello che ti condanna, caro mio, a restare per sempre nella fabbrica di polli è proprio il tuo lack of imagination. Il mio? Il tuo lack of imagination, la tua mancanza di immaginazione. Vabbè, sei sicuro di essere a Barcellona? Falta la immaginazione. No, sei a Barcellona, non a Londra, perché lack of imagination... No, sono a Barcellona, la capitale di Catalogna. Posso solo aspirare a sapere come hai fatto arrivare fin lì, dalla fabbrica di polli, in un momento... In un batter d'occhio. Quante volte te l'ho detto, basta un minimo di astrazione. Astraiti, estraiti un dente e astraiti, sì. Drago. Astraiti. Astraiti. Ma cosa dici? Che non è attutito, ma è astraiti, Drago. Astraiti. Astraiti. Ti astrago. Aspetta che ti passo uno che passa di qui. Che mi passi uno che passa. Ti passo uno che passa, ma vedi, è passato, perché qui io sono, in realtà sono su una terrazza. Sei nel passaggio? No, non sono nel passaggio, sono proprio, sono al quarto piano sopra la Rambla, per cui potrei farti sentire il suono della Rambla. Senti. Ma non dice mica... Sentito? Sì, ma non dice mica sono la Rambla, cioè è una traffico. Sì, no, lo dice, se tu ascolti bene, anche lì se ti astraiti... Se ti astraiti, Drago. Mi devo astrarmi. Se ti astrai... Aspetta, Sì, ma io rimango sempre... Qualcuno che parla in spagnolo. Una cica. Eccolo, senti. Una cica. Hola, che tal? Hola. Bueno. La tu eres a Barcellona? Sì. A Barcellona? Ma dime. Che ora è a Barcellona? È la misma ora d'Italia. Qui è mezzanotte, lì? Mezzanotte. Ma dai, ma smettetela di prendermi in giro. Dove siete? Anche voi nella fabbrica di polli? Perdon? Una della fabbrica de pollos? Sì, tu sei lì, non sei a Barcellona. Tu sei in una fabbrica de pollos. Io sì, sta nella Rambla de Barcellona. La Rambla... La Rambla? Tutto il mondo la conosce. La Rambla si chiamano de verdad. Sì. Si chiamano la Rambla, però sono la Rambla. Hai capito. E tu dove stai? Io sto nella fabbrica di polli. Sto aspettando K. Caetano. Gaetano. Sto aspettando K da un'ora e lui dice di essere a Barcellona, mentre lui è anche lui nella fabbrica. Sta immaginando tutto, anche tu sei frutto della sua immaginazione. No, no, non siamo frutto della immaginazione, non siamo in Barcellona, hombre. Sono la Rambla, qui al lato, me salì ora, perché, bueno, sono imboccata e tutto questo e... Estoy aquí, está un sol que te... Bueno, está a medianoche. It is later than you think. Hai l'automobile rotta, vendila al pollo. Metti la giacca più brutta, fai ridere il pollo. Fai vedere che sei tosto, conosci i tuoi polli. Vuoi andare a dormire presto, vai a letto coi polli. Qui se muo' polo sena. Il pollo espiatorio ti servi di me per sembrare serio, un pollo è per sempre, è amico dell'uomo, è più di un diamante, un amante per te. Drago, ma cosa fai tutto solo? E K dov'è? K è a Barcellona, te l'ho detto. Barcellona, mamma che postaccio. Ma com'è che postaccio, dai? È una città bellissima, imprevedibile, piena di palazzi in stile postmoderno. Insomma, come puoi liquidarla in due parole così, dai? Senti, sarà bella finché vuoi, ma è piena di cocoriti. E a me i cocoriti non piacciono. Ma Polo, dai, a parte che sei diventato cristiano fervente e quindi devi amare il prossimo tuo senza distinzioni di razza e colore, no? Poi i barcellonesi non sono mica cocoriti, I cocoriti sono i sudamericani, mica i catalani. Senti, per me basta che parlino spagnolo e sono già cocoriti. Ma Polo, dai! Ma cosa ti devo dire? A me già come parlano mi viene voglia di azzopparli con una delle mie beccate. Azzopparli con le beccate? Ma poverini! Ma sì, muchas gracias, buenos días, e la tarde, Buenos Aires, mamma che nervi! Pronto? Pronto? Sei K? Sì, sono K. Ma sei a Barcellona? Sono a Barcellona, sì, guarda, adesso non so se riesco a fartelo sentire, però se... un sacco di polli spagnoli qui sotto. Tutti i cocoriti sono! Senti il traffico spagnolo? Eh sì, ma lo sento, ma lì sono tutti cocoriti, Ma no cocoriti, come no? Gente. Eh sì, ma come sei diventato? Ecco, no. Se tu cominci a fare così, sai, ti metti al sole e diventi un po' cocorito. Ma tu sei... Ai, ai, ai, ai. No! Ai, mi madre! No, K! Mi madre! K, sei un cocorito! Ai, ai, ai, K, torna a casa! Mi madre! Sei un immigrante! Prendi la valigia e torna qui! No, K! La polla e il pollo. K, la valigia di cartone. Il pollo. Ma no, il pollo, torna. Il pollo è sbattimento. Sbattimento, ma tu sei diventato cocorito. Il pollo è sbattimento. No, lo sbattimento. Mi sento sbattimento. Hai lo sbattimento. Però questo mi piace. Mi passa lo sbattimento perché sono a Barcellona. E allora che? La noce. Allora, la paroxetina c'è anche lì? Che cosa succederà adesso? Il pollo in sbattimento andrà a Barcellona perché forse anche lì c'è la paroxetina. Lo saprete solo sintonizzandovi domani a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo avveniristico allestimento de... La fabbrica di polli. La fabbrica di polli produce, non chiude. Every night. Memphis anymore. Good night, ladies and gentlemen. Good night. Bar Newman.